anch'essa mattina, bel bene mi son da sdè. Sono dato un slavaccione e poso un bel caffè. Ma prima d'andare fuori, la so con sgoda e fè. Aghere da quei fiori a me caghe da pisci. E una bella mattina, c'era con un po' brena. Son proprio contento e anche buon umore. Ma sono un po' indeciso se andare per un bicicletta. Tutti casa ma tro una giacuta. Am basta fè di passo, un semaforo verde rosso. Un lucchi sta a sinistra e una moto è sta a destra. Am perde a isa musa, è tal che piacesa. Che moa che pozzo, che dà la precedenza. Allora senza zì, per rilassare un po'. A vaga fè di passo, dritti in piazza d'Oma, invece di una fiore che gira in San Marchè. Am succa te un pisson, calma cagè. Sei pari arancione. E tal che progress del denico. Son bresca vesta fossa, proprio con lo smile. E ti ti decapasse, l'assum sincero. E vuoi niente buon per i nostri ragazzi. Ma spesso appena i soldi e al potere. E quasi pozzo che buon da fare un mistero. Cantassa te bon, te un breve miraggio. E l'ora e la sera, con qualche riflessione. Invece da guardarsi, più che da trasmissione. E magari capirò, quasi così pur che la vita è una e paga da me. E magari capirò. Fatta d'amore.